Giulia, fatti check. Chi ci abbiamo come regista? Ho parlato finora. Alex Axel Brown. Più Axel Brown. Axel. No, aspetta. Benvenuti a tutti, nuovo appuntamento della serie Ti racconto una storia al volo dell'Aquila, come sempre trasmettendo dalla Galleria San Lorenzo in centro di Montevarchi, come sempre ringraziando e citando il sempre sia lodato Stefano Neri che ci concede questi spazi. Fumino, questa sera torna il gentil sesso ai microfoni del volo dell'Aquila e torna tra l'altro con una nostra grande amica, ancor prima che collega appassionata dei colori rosso-blu. È proprio così, Julian stasera torna protagonista assoluta della nostra trasmissione, la donna, diciamo la femmina, perché in effetti anche nella puntata scorsa avevamo una ragazza ospite, però non era sola, e quindi adesso il palcoscenico è tutto, diciamo, per il gentil sesso. Ma bando alle ciance, presentiamo anche il nostro regista di stasera, che è niente poco di meno che un regista premio Oscar, ovvero Axel Brown. Ringraziamo tutti gli ascoltatori di Radio Big World e diamo il benvenuto nei nostri studi a Giulia Prosperi. Ciao a tutti, grazie per avermi invitato questa sera. Bene Giulia, inizio io. Sei, credo, una delle prime persone con cui ho parlato nella prima volta che sono venuto in curva. Sicuramente la prima volta che ho comprato una maglietta me l'ha venduta te. Raccontaci com'è nata la tua passione per i colori rosso-blu e poi il tuo ruolo sempre crescente all'interno del tifo organizzato del Montevarchi. Allora, la mia passione nasce parecchi anni fa, io avevo 9 anni e mio padre in una partita infrasettimanale decise di andare a vedere Montevarchi, era Montevarchi Baraccalugo nel 94 a dicembre. Feci forca al catechismo del martedì o mercoledì, me lo ricordo benissimo, andai dal vicino di casa a un bambino a consegnargli il disegno del catechismo, non lo dire alle maestre, il babbo mi porta allo stadio. E da lì non è mai finita, da lì tutte le domeniche, poi ci fu il periodo del carnevale a febbraio, quindi avevo anche i colori per i capelli rosso-blu, io andavo la domenica con un ciuffo rosso e un ciuffo blu, vabbè avevo 9-10 anni, ci sta tutto, ne vado orgogliosa. E da lì l'anno, lo conoscete, 94-95, quindi poi la trasferta di Lugo, io andai insieme a mio papà a comprare i biglietti e il cassiere della sede, a quei tempi, in via Sant'Etani, fa porti la famiglia, ero io bambina, porti la famiglia in trasferta, fanno guarda, lei ci sta portando tutti. E quindi ricordo durante la settimana con i compagni di classe, anche loro venivano in treno a guardare la mappa gigantesca, avevamo in classe dell'Italia, facciamo questo tratto qui, Lugo si trova qui, guarda sulla mappa, cioè cose che da bambini è una cosa meravigliosa. E poi da lì è stato tutto un crescendo, sia la buona che la cattiva sorte di Montevarchi è stata sempre seguita. Io abito vicino allo stadio, io e mio babbo tre domeniche a piedi allo stadio, quando era possibile le trasferte, crescendo le trasferte sono aumentate sempre con mio babbo. E poi ci fu un anno, avevo 15 anni, avevo fatto la prima superiore, 15 anni, decisi di avvicinarmi di più agli ultras. Ho sempre partecipato cantando, io mi ricordo mio padre nella famosa zona USL, che è il lato della curva, quella più a nord, e io mi distaccavo sempre più da lui, andando nella parte più estrema, più a nord della curva, cantando, quindi mi ricordo i derby con l'Arezzo, non facendo parte effettiva della curva, ma indossando i colori ufficiali, il materiale ufficiale, piano piano cantando i cori, ogni tanto anche bestemmiando, mio padre quelle me le faceva passare. Poi, verso i 15 anni, in una delle fanzine, credo fu o il primo o il secondo anno di fanzine, alla fine in una pagina, alla fine del campionato, c'era scritto chi voleva partecipare alle riunioni estive e un'email per ricontattare. Io avevo anche intenzione di fare un sito internet, io sono una speculatrice al computer e decisi di farmi avanti. E mi dissero, guarda, vieni, le riunioni estive venivano fatte alla GIL e mi presentai e non ci fu nemmeno un attimo di imbarazzo, vennero subito verso di me, si presentarono, mi misero subito a mio agio, ai tempi giglie, brigate, riunione anche se estiva, quindi con campionato finito, ma stavano preparando il primo memorial baseball, quindi riunione molto numerosa e mi trovai subito a mio agio e stavano appunto organizzando il memorial baseball, la prima cosa era andare a tagliare l'erba e bumbunga, io andai a tagliare l'erba e bumbunga, cioè era una cosa, e io fui subito dentro, cioè era naturale, poi ero io ho sempre avuto le mie guide, tra cui Andrea, che è stato il vostro credo primo ospite, è stata la mia guida, quindi e tuttora lo è, quando ho dei dubbi ultra sia da lui e quindi da lì è stata tutta in discesa, cioè inizi con poco, dai una mano con poco, tagliando il pane, tagliando l'erba, dando una mano prima a dare le fanzine all'ingresso della curva, e poi da lì, come detto, al materiale. Chi lo seguiva prima si era un po' annoiato, io ero l'ultima anche arrivata, perché alla fine nelle brigate sono stata l'ultima, prima della fine poi del gruppo in sé. E l'ultima arrivata te la senti di gestire il materiale, quindi da lì in avanti io montavo il mio tavolino, il mio materiale, poi lo smontavo a 5 minuti della partita, lo vendevo online. Ai tempi c'erano pochissimi siti e scambi di materiale a livello online, erano i primi, diciamo, che si potevano trovare. Anche quella è una bella esperienza, perché alla fine gente poi ti continua anche a scrivere, conosce persone, è bello. E niente, poi da lì è andata avanti e gli anni di gavetta si trasformano poi in qualcosa di più, e quindi magari da vendere il materiale ho iniziato a disegnarlo, ho iniziato, insomma, voi lo sapete, le cose si evolvono. Quello che mi chiedo è: riesci a fermare nel tempo il momento in cui tu, da appassionata di sport probabilmente o attratta dal gioco del calcio e quindi frequentatrice dello stadio grazie a tuo padre, appunto, in cui hai deciso che la tua strada era di entrare ancora più dentro alla vita che si fa dentro una curva, in questo caso la curva del Montevarchi, che all'epoca comunque, come ricordavi, era una curva molto ben organizzata, era una curva che calcava i scenari di Serie C e quindi all'epoca era anche una bella soddisfazione. Ecco, lo trovi nel tempo il momento in cui ti è scattata questa voglia? Non ricordo l'attimo, non ricordo, credo l'anno sia alla fine quello che dicevo, quando avevo 15 anni, perché nella mia vita privata avevo, diciamo, anche un periodo di solitudine, ho avuto problemi con amici, quindi ero rimasta un po' sola anche nell'anno. La domenica era una libertà, come è ora, settimana di lavoro arriva domenica, lì era una settimana di solitudine, arrivava la domenica e c'era la partita, c'era la gente, lì non gliene fregava nessuno chi ero, lì c'era tutti rosso-blu, c'era tutti montevarchini. Di conseguenza io volontariamente mi ero spinta, sia per voler far parte di quel mondo che mi è piaciuto dal primo giorno, cioè i cori, i colori, è una cosa amata dal primo giorno, sia per far parte di qualcosa, e quel qualcosa era un qualcosa che mi piaceva, non era per niente forzato, e mi hanno poi accettata in un modo talmente bello e magnifico che è stato talmente naturale. Non ti dico il giorno preciso, ma io mi ricordo benissimo i primi passi alla GIL, a quella famosa riunione, vedermi due Andrea venirmi incontro, cioè me lo ricordo benissimo. Quindi credo alla fine è stato un salire, e partito poi tutto da lì. E tra l'altro parlavi di materiale, si diceva in introduzione puntata femminile, io mi ricordo che c'erano le curvonze in quegli anni lì, no? Sì, perché praticamente, allora, se poi si vuole anche aprire una parentesi, le donne nelle curve non sono tantissime, sebbene però nella mia esperienza ho conosciuto tantissime donne di curve, è una cosa bellissima. A Montevarchi non c'erano, e molte erano le fidanzate e le mogli. In poche si avvicinano, come magari ho fatto io. Ultimamente qualcuno lo sta facendo e la cosa mi fa molto piacere. E ai tempi eravamo le fidanzate e le mogli, c'erano le fidanzate e le mogli di altri rappresentanti delle brigate a tempi, che però non erano semplicemente fidanzate, venivano alla partita a girarsi i pollici, facevano, cioè si gestiva il materiale, si gestiva i pranzi, ci si muoveva mentre gli uomini dovevano fare altre cose, insomma era un'organizzazione fatta bene. E logicamente io, essendo una donna, una femmina, ti avvicini di più alle altre femmine, alle altre ragazze, è normale. Di conseguenza un giorno, a forza di fare materiale per gli altri, si disse: senti, facciamo qualcosa per noi. Ai tempi andava di moda, c'era le veline, poi avevano fatto le velonze, qualcosa del genere, a quelli della Jalapas Band. Allora da lì si disse: si fa le curvonze. Fece una magliettina di quelle un po' assurde, se ne stampò pochissime per noi. E fu più che altro una cosa per dire: sì, siamo un bel gruppo, siamo un bel gruppo d'amiche. Io ho tuttora delle amiche, chiamo sorelle grazie alla curva, cioè la First Lady è la mia sorella, ci sentiamo tutti i giorni e con lei ho imparato tanto, quindi grazie anche a questo. Insomma, le donne sono un bel punto forte delle curve, non sembra, ma ce ne sono. Nel tuo, appunto, stare in curva, poi piano piano è sempre aumentato, è sempre montato anche il tuo, a parte l'attaccamento, che è quello, come hai detto, c'è sempre stato, però appunto proprio il fare. E una cosa che tu hai fatto per molti anni e che tuttora fai è mantenere le relazioni anche con le tifoserie di fuori, le tifoserie gemellate, le tifoserie amiche. Ecco, nell'osservare altre tifoserie di ben altre categorie, perché alla fine anche categorie come la Serie A, oppure categorie anche inferiori, cosa ti colpisce di più di queste altre curve rispetto alla curva del Montevarchi? E trovi magari delle... Allora, innanzitutto il numero. più cresci e più il numero di rappresentanti femminili delle curve aumenta. Quindi più sei nelle serie superiori e più io ho notato questa cosa qua. Anche il lavoro che viene fatto, perché comunque l'occhio femminile ha sempre un qualcosa in più, quindi coreografie realizzate da donne, poi dipende anche dai generi, ci sono quelle più portate a scrivere, quindi le vedi fare comunicati, quelle più portate a seguire dei progetti, quelle più portate a stare dietro le quinte. Comunque sì, la curva è prettamente maschile, non vedrai mai una ragazza magari lanciare cori ancora presto, e comunque ci vuole un certo carisma, una certa... Io non l'ho mai vista, ora magari qualcuno mi sbugiarderà, esistono, però è una cosa comunque sempre da dietro le quinte, ma non da dietro le quinte stanno nascoste, da dietro le quinte c'hanno le palle, è una cosa molto tosta. Negli anni ho fatto molta amicizia, essendo una ragazza è normale andare a conoscere i gemellati. Io ho avuto la prima esperienza in una infrasettimanale, andai a vedere Empoli Regina, ti presentano, io fui presentata ai vari rappresentanti, logicamente l'ultras donna ti vede, ultima arrivata, un po' timida, ti prende sotto la sua ala, da lì nascono poi grandissime amicizie. Stessa cosa ai Memorial, il mio primo Memorial Cavalletto, stetti 2 giorni interi con le ragazze degli Ingrifati, ragazze tostissime, spettacolari. Negli anni questa cosa poi è aumentata, le ragazze di Fasano che abbiamo conosciuto ai vari Memoria, le ragazze di Parma che sono tra l'altro un numero altissimo e sono spettacolari, cioè credo che fanno un lavoro che se non ci fossero loro sono toste. Abbiamo conosciuto anche altre nei vari progetti, siamo state ai mondiali antirazzisti e ci sono molte donne che fanno parte di vari progetti, il progetto Ultras e altre curve che fanno tanto, quindi diciamo che è un'esperienza, una conoscenza che ne vale la pena. E in un mondo, quello delle curve, quello del calcio in generale, che è prettamente maschile, anche se ovviamente delle figure femminili ci sono, come hai vissuto tu appunto l'essere una femmina in mezzo a tanti uomini che fanno le loro cose da ultras, ecco, mettiamola così? Vabbè, io sono stata accolta, come ho detto prima, benissimo. Alla fine per me non è stato nemmeno tanto imbarazzante. Alla fine cresci con loro, quindi se anche un uomo si comporta da orso, se sei cresciuto con loro, lo conosci come persona. La domenica è una cosa poi a parte, sono un po' orsa anch'io la domenica, non c'è stata difficoltà. Anzi, ti tempra, diciamo. Qualcuno ogni tanto magari dice qualche battuta strana e mi guarda, mi fa oh scusa, dice una parolaccia, oh scusa, poi non lo guarda, io sono un ultras, sono più abituata a peggio, cioè. E proprio parlando di ultras, poi giustamente te citavi i differenti rapporti, le differenti esperienze che hai avuto con gemellati o comunque con altre tifoserie, visto che hai seguito tanti progetti anche nazionali del mondo ultras all'interno dei quali appunto la Curva Sud ha partecipato. Siccome questa trasmissione probabilmente ci ascoltano anche gli ultras, ma ci ascolterà anche qualcuno che ultras non è, come puoi raccontare a chi non conosce questo mondo cos'è il gemellaggio, cosa significa e qual è il sentimento e l'emozione e la fratellanza che si instaura tra due tifoserie gemellate? È una cosa molto difficile da spiegare, è come quando mi chiedono ma te sei un ultras, che ti rispondo? Sì, ma che fai? È difficile da spiegare, ci devi essere dentro. E nel gemellaggio uguale, quando io spiego a qualcuno che due tifoserie si sono ritrovate negli anni, sono cresciute insieme e si sono ritrovate ad avere delle similitudini e a cercarsi, a essere amici e da lì a nascere, a far sfociare in qualcosa di più, in questo caso dei gemellaggi, e poi da lì a partecipare, a essere ospite nelle varie occasioni, a venire alle partite, ad andare ai matrimoni e alle ferie insieme, perché anche di questo si tratta, io te lo posso anche spiegare, ma quando ho finito non mi rendo conto se ti hai veramente percepito quello che sento io. Cioè, quando ci hanno invitato a un rinfresco per un matrimonio a Empoli e lì siamo tutti fratelli a festeggiare, una che vedi 4 volte l'anno, una coppia che vedi 4 volte l'anno a una partita, ti ha invitato al suo matrimonio, gli è nata la figlia, sei andata a trovarla. Cioè, sono cose, sono amici. Cioè, alla fine la mia amicizia non è solo qui, non ho solo gli amici qui, ho altri amici che hanno la mia stessa fede per altri colori, ma totalmente uguale. E che quando parlano con me di qualcosa che riguarda gli stadi, la curva, la vita ultras, mi trovano appieno in queste argomentazioni, ecco. Tornando a parlare appunto della vita di curva, per quello che hai vissuto tu, per quello che hai visto tu e per come lo hai vissuto tu, il periodo, diciamo, nero, buio del Montevarchi, che poi forse è il periodo di luce perché è quello della risalita, diciamo, dopo il fallimento fino ai giorni, fino ad oggi, fino ai giorni nostri, come lo hai vissuto il fatto che fino a qualche domenica prima ovunque il Montevarchi giocava c'era una tifoseria più o meno numerosa, comunque c'erano delle aspettative, c'erano dei pullman da organizzare, c'erano dei pranzi da fare prima della partita fuori, c'era da trovarsi al bar perché qualcuno poteva arrivare, e poi per un po' di tempo tutto questo non c'è stato, perché per le categorie che il Montevarchi ha giocato in quegli anni ovviamente non c'era rivalità a livello di tifoseria. E tu come l'hai vissuta questa mancanza? Da una parte la mancanza è stata forte, perché oltre all'affetto che hai per la squadra hai comunque un appuntamento fisso la domenica con i tuoi amici, oltre che i colori, oltre che la partita, che sono totalmente importanti, ma è una cosa proprio fissa con gli amici. Io ho avuto la fortuna che i miei amici sono stati gli stessi che hanno, i miei amici diciamo più stretti, che sono diventati i miei amici della vita, quindi si tratta non di una cosa solo la domenica, si tratta di una cosa di 7 giorni su 7, hanno continuato anche loro nella buona e nella cattiva sorte a seguire i colori, quindi per me è stato anche facile, mi aggregavo, organizzavo se potevo, e per me è stato facile. Ci sono state delle persone che magari potevano avere la stessa mia possibilità, ma hanno deciso di evitare, diciamo, nei periodi più neri di seguire la squadra, come ci sono stati tanti altri che hanno fatto molto invece. E allora Giulia, considerando appunto che attraverso i gemellaggi hai avuto una grande esperienza di tifo, hai visto diversi stadi, l'hai frequentato con diverse tifoserie, noi abbiamo ospitato qui alcuni tifosi empolesi e onestamente nel loro modo anche di parlare, di vivere, abbiamo riconosciuto delle similitudini, dei modi simili di vivere la passione, ed effettivamente poi tutto sommato c'è infatti un gemellaggio, magari ci sono delle assonanze. Ma te, rispetto alle tipicità che hai vissuto a livello di tifo nelle altre tifoserie che hai visto oltre ad aver vissuto, come potresti descrivere la montevarchinità allo stadio? Cioè, qual è la particolarità descrittiva o descrivibile dell'essere montevarchini a vedere la partita in quello che è per noi la porta d'accesso alla montevarchinità, che è appunto i Brilli Petti? La domanda è difficilissima. Pensaci. Perché è veramente difficile, e mi viene in mente ogni stadio, ogni tifoseria che ho conosciuto, come avete detto anche voi, avete riconosciuto, sono molto simili, cioè è per questo forse anche nasce un gemellaggio. Poi si impara anche, quindi magari ci sta che noi ora usiamo un tipo di procedura e non mi viene in mente, può per dire che magari l'abbiamo presa da qualche nostro gemellato e abbiamo visto, guarda, questo funziona, lo fanno anche loro. Però quello che mi viene in mente è che ogni settore, ogni curva o maratona che sia che io ho frequentato, ci sono le stesse similitudini che vedo in curva su dei Brilli Petti, ci sono gli stessi personaggi, ci sono gli stessi modi di fare, ci sono gli stessi ruoli, e quindi alla fine con le varie sfumature, ma è una cosa molto simile, è anche questo che ci unisce. Parlando qualche anno fa con dei ragazzi di Parma che avevano conosciuto un ragazzo di Montevarchi, fa: noi a Parma questo ragazzo lo chiamiamo con il soprannome di uno dei nostri, perché effettivamente è lui, però versione montevarchina. Cioè alla fine è tutto il mondo e il paese, e quando si tratta di tifoserie appunto gemellate, o che comunque vedi continuamente durante l'anno qualcosa che vedi anche al di fuori della curva, e si tratta anche di amicizie, quindi è un qualcosa che viene naturale. Nel tuo peregrinare per curve e nella curva sud, per stadi, per in su e giù per l'Italia, e il tuo essere poi diventato ultras, ma tuo padre, che per la prima volta ti ha portato allo stadio, se lo sarebbe mai aspettato? Mio padre un giorno ha esordito con: tanto lo so che venga a prenderti in galera un giorno, quindi pensa un pochino come siamo andati, ridendo e scherzando. Anche per lui è stata una cosa in salita, cioè lui l'ha visto, mi ha lasciato andare, e sebbene io avevo iniziato a far parte proprio effettivamente dell'ultras, delle brigate, per il primo anno io in trasferta comunque con le brigate, anche se c'erano pullman organizzati non ci sono andata, ero ancora piccola, però andavo con lui, con il club, quindi poi allo stadio mi univo con loro. Gli anni successivi è stato naturale iniziare sia in pullman che in macchina con persone che per mio padre erano sconosciuti, cioè mio padre non si è mai presentato, io sono il babbo della Giulia, ha 16 anni magari, è stato naturale per lui questo. Queste sono le persone che tuttora allo stadio salutano mio babbo, mi danno una mano quando c'è bisogno, perché ora sono io a portare lui allo stadio per dei problemi fisici che ha. Quando io dico che ho trovato veramente dei fratelli, è anche in questo. Quindi per lui è stato un crescendo, lo rivede ora, che li chiama per nome, li conosce, è nata piano piano, è nata bene. Come disse una volta un tuo collega ultras in una certa occasione, se a Montevarchi ci fossero 15 Giulie, saremo l'Atalanta, o quantomeno la tifoseria dell'Atalanta. E cosa succederebbe quindi, secondo te, effettivamente, se ci fossero 15 donne impegnate come te in curva a Montevarchi? Quanto cambierebbero le cose? Se ci fossero 15 Giulie, non si farebbe altro che chiacchierare, sarebbe la fine della curva, perché io non smetto mai di chiacchierare. Avere 15 donne attive, come posso essere io, anche solo la metà, la differenza la vedi, perché... io lo vedo, allora io sono una molto pacchettona, va bene, negli anni io sono una, mi fai i miei schemi, bisogna organizzare, fare, io voglio sia fatto. In questi anni si sono avvicinate ultimamente, soprattutto una ragazza ultimamente si è avvicinata e vedo proprio la differenza, cioè lei dice io vi do una mano e lei fa, al contrario ci possono essere dei ragazzi che sì vogliono fare però ti arrivano tardi o magari non capiscono quanto è importante invece avere quella mano in più. Purtroppo proprio la differenza in generale nella vita tra uomo e donna, capito? L'uomo dice sì l'avviterò questa lampadina, dopo una settimana l'ha avvitata la donna, e purtroppo io vedo anche questo nella curva e effettivamente la differenza c'è. Cioè, non per volere io tirare l'acqua al mio mulino, perché siamo tutte a darci mano, c'è un gruppo ristretto soprattutto di lavoro nella curva che è importantissimo. Tra questi ci sono anche io che sono nella mia vita, ho sempre organizzato cose, è una cosa anche mia, di attitudine mia, ci vuole anche questo e per fortuna a Montevarchi c'è e non sono solo io, ecco. Tornando alla genesi del tuo essere dentro lo stadio, del tuo essere vicina ai colori rosso-blu, o vale a dire al fatto che tuo padre ti ci abbia portato, mi immagino che ne so, durante la settimana a cena, a pranzo insieme e se ne parla, la partita la vedete più o meno insieme o comunque vedete la stessa partita e quindi... ci sarà anche una fase di confronto, anche che ne so, su come ha giocato o su come aveva giocato 10 anni prima o 20, che ne so, una partita particolare. Ecco, questo confronto con tuo padre, vale a dire con chi ha più anni di noi alla fine, perché noi siamo coetanei, quindi per sapere proprio con che occhi, con che spirito e con che testa, rispetto alla tua, che potrebbe essere anche la nostra, vedono queste persone le cose succedere. Allora, innanzitutto quando io ho iniziato, appunto, mio padre aveva la sua esperienza dei suoi anni precedenti, cioè lui era da tantissimo seguì a Montevarchi, il famoso Spareggia Empoli, c'era anche mia madre, insomma era una cosa proprio di famiglia, si andava in trasferta e tutto, quindi i primi tempi mi raccontava le storie e mi dispiace che qualcuna me ne sono anche scordata, dovrei fare un riassunto. Poi si parlava dei quartieri vari di Montevarchi, mi ha raccontato, io ho una delle sciarpe fatta solo esclusivamente da un quartiere di Montevarchi, fatte da quei pochi di quel quartiere che andarono poi a vedere la trasferta di Coppa Italia dell'84, quindi anche i cimeli, si tratta anche di quello, adesivi, cose varie ad annata, e poi negli anni si inizia a condividere insieme le storie, cioè della partita che si sta, del campionato che si sta seguendo. All'inizio, essendo io bambina e magari di calcio all'inizio ne capivo il giusto, ho compreso da me fuori gioco, ne vado molto orgogliosa da bambina. e poi infatti te l'hanno cambiato svariate volte, sì. Non so se sei ancora aggiornata e ancora lo capisci, sì, però sì. Ecco, diciamo la prima versione sì, l'avevi capita. No, la soddisfazione di urlare fuori gioco prima che il guardalini alza la bandierina e il vecchino seduto si gira, come dire, che cazzo ha detto questo? Oh, insomma, no, dicevo, durante il campionato sì, mi insegnava eccetera, adesso sono cambiate un po' le sfaccettature, mio padre è più anziano, di conseguenza vede anche da dove si trova, vede anche peggio la partita perché non può più salire in curva, anch'io è un anno che non vado più in curva perché sto accanto a lui e quindi magari poi ci riaggiorniamo durante la settimana sull'azione, perché magari dalla posizione siamo noi vediamo male l'azione, quindi ma quello era un fuorigioco, ma quello era così, è una cosa che durante la settimana quando vado a trovare mio padre magari ho rivisto il video, ho rivisto l'intervista, la cosa che tuttora lui è quasi un appassionato, lui legge i comunicati della Serie D per sapere gli arbitri, quindi la cosa che io so prima di tutto è da dove viene l'arbitro e se magari vengono a zona limitrofe se fanno il viaggio insieme, questa è una teoria di mio padre, mi fa schiantare tutte le volte da ridere. Quindi diciamo che non c'è più un insegnamento né da parte mia né da parte sua, c'è proprio il confronto da sportivi come se si fosse ai bar, una cosa molto lieve e breve, ma c'è questo, magari lui ha letto una cosa sul giornale che io ancora non ho letto, mi chiama, hai saputo questo, o viceversa io ho saputo anticipatamente una cosa e avviso lui, ecco, si tratta come sarà il bar, secondo me. Allora, ti hai parlato di cimeli, no? E quindi mi è venuto immediatamente in mente che te in casa tua c'è una collezione incredibile tra i cimeli, probabilmente appartenenti a tuo padre, quelli che hai acquistato te, quelli che ti hai prodotto. Perché poi diciamo la verità e diciamola tutta, Giulia è anche colei che ha fatto la bellissima grafica del Ti racconto una storia, il volo dell'Aquila, che potete vedere nella nostra pagina Facebook e magari in futuro da qualche altra parte. Quindi questo anche per sottolineare la bravura di Giulia, no? Era doveroso dire questa cosa, infatti. E mi ero scordato di dirla all'inizio, però ho colto l'occasione. Ecco, copyright l'abbiamo cercato, va bene. Dicevamo, i cimeli, hai un sacco di cose che te hai anche disegnato, prodotto, fatto, piuttosto anche che targhe per certi memorial o premi. Qual è la produzione che ti ha reso più orgogliosa? Sì, oddio, ne ho fatte tante, sia a livello grafico che a livello manuale, tipo realizzando stencil da regalare, perché alla fine funziona così: ogni anno sei invitato a un memorial e i memorial purtroppo diventano tanti, dico purtroppo perché si tratta di memorial, memorial di ragazzi non ci sono più. Negli anni è normale portare un dono, inizialmente di targhe, e alla fine quella cosa, almeno dal mio punto di vista, perché solitamente sono io a farle, diventano secondo me noiose, sempre uguali, quindi ho iniziato un po' a variare con cose grafiche, con cose utili. Ultimamente abbiamo dato casse di vino, che secondo me è una cosa ancora più utile. E quindi io, diciamo, nella mia creatività ho cercato di alzare un po' il livello, un po' l'asticella di quello che potrebbe essere il materiale da regalare. Quello di cui vado più orgogliosa non lo so, sì, forse gli stencil che un anno avevo realizzato sia per gli ingrifati che per Desperados, era una cosa un po' particolare su Plexigas, gli si era regalato un cesto di bombolette e questi stencil su Plexigas che uno volendo poteva riprodurre o semplicemente incorniciare perché era un oggettino unico, perché è stata una delle cose più difficili. Però ecco, anche una cosa di cui vado molto orgogliosa è che negli ultimi anni, soprattutto quando Montevarchi ha avuto la risalita dalle peggiori categorie poi all'eccellenza di ora in Serie D, abbiamo iniziato a seguire, diciamo, un filo conduttore che poteva essere, diciamo, una premiazione per i giocatori che hanno più dato alla rinascita dell'Aquila. C'è stato Cuccoli, sono stati i vecchi capitani, c'è stato il capitan Renzi che ci ha seguito dall'inizio della rinascita dell'Aquila, e noi come curva abbiamo deciso di fare dei regali. Quindi io ho personalmente ritagliato del tempo mio per realizzare una targa che prima di tutto piacesse a me, cioè non era una cosa tirata via, era una cosa che io facevo col cuore perché volevo poi dare questo, e effettivamente so che ha funzionato. Ecco, una cosa che ho fatto molto orgogliosa, mi è venuta in mente adesso: la fascia da capitano. Quest'anno abbiamo consegnato la fascia da capitano con lo stemma della Sud, è stata la cosa più semplice che abbiamo fatto, che non l'ho fatta io, l'abbiamo fatta fare, però è una bella cosa. Mentre invece tra i cimeli che c'hai in casa, tipo, qual è quello dal quale non ti separeresti? Una maglia, una sciarpa, non lo so, qualcosa? Allora, io tra i vari cimeli che ho collezionato negli anni, perché l'ho collezionato anche di altre squadre, molti poi le ho donati via, quelle che non, diciamo, mi interessano più. Io ho una colonna in casa, che è minima la collezione rispetto a quelle che hanno tante altre persone della Sud, e ho una colonna di solo cose rosso-blu e altre degli amici più stretti, gemellate non, ma comunque amici più stretti. E tra questi la cosa di cui vado più fiera, o comunque di cui non mi posso separare mai, ci può essere la sciarpa preferita, che era una sciarpa che si fece per il centenario delle brigate, e quella che vi dicevo prima era la sciarpa fatta per la finale di Coppa che mi ha dato mio padre, che è una semplice sciarpa a strisce rosso-blu con un tricolore finale e nei veneri, che era proprio in memoria in occasione della Coppa. E ora, visto che stiamo parlando di regali e di doni, Giulia, permettimi di darti un consiglio, visto che prima hai parlato di casse di vino regalate, cosa molto utile: il prossimo anno i cavatappi. Allora, io ho un bellissimo cavatappi fatto dai Frentani di Lanciano, che ne vado orgoglioso, anche quello in vetrina. Effettivamente dobbiamo mettere al bando, venite alla riunione, presentate il progetto, ne valutiamo, ma prima di tutto c'è il portachiavi. Sono anni che voglio rifare un portachiavi di quelli seri, e ora ci vuole un po' perché poi sembra facile, tanto la Giulia disegna, la Giulia lo fa in ritaglio di tempo, poi deve mettere d'accordo comunque la gente che si presenta alla riunione, perché basta che uno dica ma quella riga lì cambia di colore, tutti sono d'accordo, io devo ripartire da capo. Quindi è una cosa anche abbastanza, che non posso io prendere, fa un disegno, ve lo stampo e voi comprate il materiale senza averlo visto prima, no, le cose vengono fatte nella curva. Logicamente io do una mano a disegnarlo, a farlo prima, ma le cose sono fatte dalla curva, non è che sono fatte da Giulia e basta. E quindi è lunga, sembra facile ma è lunga. Quindi, per far capire anche ai nostri ascoltatori che magari non sono avvezzi alla vita di curva, alle dinamiche di una curva. Come funziona? Facci capire, ci sono le votazioni, tipo facciamo una sciarpa così, beh, io voto sì, io voto no, sì, insomma, oppure c'è un qualcuno che decide per tutti? Allora no, noi apriamo sempre suggerimenti a chiunque ne abbia, che sia un adesivo, una spilla, una maglina, una sciarpa, eccetera. Anche semplicemente uno può venire e dire, oh, e tanto non fate, che ne so, i berretti di lana, a me mi fa fredda la testa. Allora si valuta, perché va valutato la spesa, va valutato tante altre cose a livello grafico, quanto può costare un colore in più piuttosto che uno in meno, e poi da lì si buttano giù delle idee. Si buttano giù delle idee, possono essere chiunque, può suggerire un'idea copiata anche da qualcuno, rivalutata, e cioè non copiata e scopiazzata paro pari, però magari c'è quell'elemento lì, mi potrebbe piacere in un nostro contesto di Curva Sud, e da lì vengono fatte uno o più disegni e poi messi, diciamo, sì, anche a votazione, ecco, logicamente, perché comunque quello che parte è comunque una cosa partorita dalla Sud, già a prescindere dall'inizio del progetto. Ecco. Quindi le curve sono democratiche e dopo le votazioni non c'è il teatrino come per il governo, che è una vita che abbiamo votato e nessuno sa chi ha vinto, chi ha perso. Non c'è le consultazioni. No. Allora, diciamo che i fogli delle votazioni poi spariscono, perché me li prendo io, non so che fine fanno, però sì, ecco, tanto la riunione è importante anche per quello, perché viene deciso tutto lì e quindi il verbale non c'è, ma è una cosa a voce, vale quella. Arriviamo a una delle domande classiche del volo dell'Aquila, in questo caso il tuo amarcord, Giulia. Te prima ci hai raccontato delle emozioni della partita a Lugo di Romagna, una delle tue prime, però dovessi raccontarci quella, a prescindere da quella partita che avrà un ruolo particolare nella tua memoria, chiaramente, ma negli anni a venire, negli anni in cui in un modo o nell'altro sei stata protagonista della curva, la partita più bella, più importante, più significativa che ti ricordi? Sì, ad eccezione di Lugo, che essendo la mia prima importantissima partita, quindi non la dimenticherò mai. Più che la partita è la trasferta, perché quando vivi Ultras 7 giorni su 7, sì, hai attaccamento alla maglia, quello che succede in campo te lo ricorderai per sempre, i gol, le esultanze te lo ricordi, però alla fine quello che te vai a elencare per primo sono le trasferte, cioè tutto dalla partenza all'arrivo al ritorno, tutto quello che succede nel tragitto, tutto quello che succede quando arriva ad uno stadio. L'anno in cui il girone venne diviso verticalmente e finalmente io mi sono fatta i primi stadi del sud, che è una cosa che vi hanno nominato in tanti, io sono una grande ascoltatrice della vostra trasmissione, ho visto che è stato detto da tanti, la trasferta di Cava e la trasferta di Benevento per me sono stati top, perché erano stadi importanti, tifoserie importanti, la tifoseria di Cava con tutti quei tamburi me la ricordo tuttora, cioè è una cosa meravigliosa, e anche il modo in cui vieni, in cui si ricevono, ecco, è stato proprio bello, perché noi siamo l'ultimo rispetto a loro. Anche se abbiamo la nostra storia, io personalmente, io parlo ora come Giulia, mi sono sentita una piccolissima persona che entra in uno stadio enorme, con tanta gente, con un rimbombo assordante, mi sono sentita a mio agio e mi è piaciuto molto. Se si tratta proprio di partite sul campo, purtroppo non c'ero a Montevarchi San Donà, c'era mio babbo e me l'ha raccontato per Filippo Segno. Sui risultati, vabbè, le ultime di campionato, anche quelle della rinascita in cui vinci, in cui ti abbracci con gente sconosciuta, in cui siamo tutti belli e amici, ci vogliamo tutti bene, e soprattutto il dopo, i festeggiamenti dopo durante nella città, cioè cosa che ho fatto con voi due qui presenti, quindi lo sapete benissimo. Cioè. Mi ricordo una grande serata in un pub qui vicino, grandi protagonisti che chissà, forse ci ascoltano. Sinceramente io mi ricordo di aver vissuto con te la giornata, la trasferta di Cortona, dove vincemmo il campionato di prima categoria, che sì, è un campionato di prima categoria, e quindi chi vince la Champions League vince una cosa più importante, questo fuori di dubbio, però quella era la nostra Champions League, insomma quel giorno mi ricordo che ci siamo divertiti molto. Io personalmente, almeno nella storia recente, quella è la domenica che più mi ricordo. Sì, Cortona è stata particolarmente, ma anche dal campo vedevi proprio i giocatori attaccati alla squadra, si presentarono la maglina Nana e Rocchini, che Francesco vi ha raccontato anche in trasmissione, è tutt'uno, è un abbraccio grande. Una cosa molto bella al di fuori delle partite che mi ricordo sono anche i memorial o comunque le giornate organizzate da parte nostra, perché per me sono state anche quelle una grande soddisfazione, e quando vedi una cosa che sono settimane, anche mesi forse, che organizzi, vedi che va tutto bene, funziona, anzi forse è andata anche oltre le aspettative, è una gran soddisfazione. Giulia, vengo ora a chiederti di una mia curiosità rispetto ad un argomento che diversi ospiti hanno trattato durante le nostre trasmissioni, ovvero lo stadio Brilliperi. Ecco, siccome tu sei una donna e ci hai detto di quanto sia importante che ci sia la figura femminile anche all'interno delle curve, perché comunque l'occhio femminile vede qualcosa in più rispetto all'occhio maschile da certi punti di vista, o in più o in meno, ma insomma comunque lo vede da un punto di vista differente. Ecco, ora, siccome anche la guida amministrativa del comune è in mano ad una donna, il parere di una donna mi sembra consono da chiedere. Ecco, se lo stadio Brilliperi fosse diverso, ad esempio con le curve attaccate sopra come il Marassi di Genova, come potrebbe migliorare la situazione della squadra, della società, questo cambiamento? Oppure no, oppure non lo migliorerebbe secondo te? Prima di tutto, io sono una nostalgica, quindi so che i Brilliperi necessita di lavori, so che quella curva necessita di essere buttata giù e rifatta da capo, perché è una cosa palese, però sono anche nostalgica e dico che mi dispiace. A me avere quella curva, che proprio è una curva che dà sulla bandierina, tra l'altro con un murale se dietro, a cui ho anche dato mano, ho dato le pennellate del fondo, quindi sapere che un giorno ci sarà più, per me è anche una delusione, perché è un fatto proprio affettivo. Accantonando questo, rimane sempre il mio cuore, sì, effettivamente, come è stato già detto più volte in questa trasmissione, il Brilliperi è uno stadio che, come è nato, così è rimasto, e negli anni dovevano esserci delle migliorie che non sono state fatte, perché comunque devi seguire degli standard che vanno sempre sempre più a ingrandirsi, comunque richiedono più spese e più modifiche. Se si pensa che ai tempi, e io c'ero a quella partita, fu fatto un playoff di, credo, uno spareggio di Serie B tra Cesena e Ternana, se non sbaglio, Sì. Io andai a vedere la partita sempre con mio padre, quindi se, ora non hai più il permesso di fare una cosa del genere, quindi i canoni comunque cambiano, va bene, di conseguenza te devi stare al passo. Montevarchi non è stata al passo, Montevarchi città, comune, chi ne è responsabile, non è stata al passo. Ora ce n'è necessità, perché se comunque Montevarchi ha intenzione, quello è quello che sembra, negli anni di tornare in auge a quello che era una volta, ti devi comunque mettere in pari, perché non puoi pretendere di arrivare a una certa categoria e non avere lo stadio adeguato. Cosa fai? Tutte le domeniche giochi in un campo neutro? Dove? Giochi a Arezzo? Non ne parliamo nemmeno. Cioè, si tratta anche di quello, si tratta anche semplicemente di chi viene ospite, che quindi devi comunque dargli la possibilità di avere un settore adeguato, un tot di biglietti da vedere, di conseguenza anche chi c'è in casa, perché ci possono essere le partite con meno flusso, ma ci sono anche quelle con più flusso. Di conseguenza cosa fai? Neghi una partita importante, un derby importante che ti raccoglie tutta la cittadina, gli neghi la possibilità di andare allo stadio perché hai solo tot posti, perché quest'anno è stato deciso che più di un biglietto oltre quel numero non può essere venduto? È impossibile. Cioè, anche se metti una prevendita che chi ha l'abbonamento può avere la prelazione sul biglietto, eccetera, comunque neghi una festa alla città, una festa allo stadio, una cosa che comunque ha un grande bacino. Quindi di conseguenza sì, dei lavori devono essere fatte sicuramente delle curve più grandi, più accessibili, e lo spazio che c'è dietro la porta è palese, che è di buon utilizzo, diciamo, è una buona zona. Oltre a quello, quindi alla capienza, a una struttura migliore, ha dei campi di allenamento per le squadre, per le giovanili, per l'atletica, chi comunque usa lo stadio, perché sono in tantissimi a usare lo stadio Brilliperi, tant'è che la prima squadra si allena spesso e volentieri, sia per non rovinare il campo che per l'afflusso delle persone, si allena in altri campi, quindi è anche un fattore proprio di organizzazione. C'è anche una cosa che io ho visto nei tanti stadi che ho calcato, anche negli stadi più piccoli che abbiamo calcato negli ultimi anni, ci sono posti organizzatissimi a livello che va oltre la partita, quindi si tratta anche solo di avere un circolo gestito da persone montevarchine che è proprio lì nello stadio, che si affaccia sullo stadio, e come diceva Brian in una vostra puntata, chiunque il sabato sera va a cena in quel posto diventerebbe parte di Montevarchi, della montevarchinità, perché sia ben chiaro, lo stadio non è solo per gli ultras, nello stadio noi abbiamo dato posto a tantissime persone avevano voglia di stare in compagnia, che sono uscite dal loro guscio. Facciamo molto del sociale noi all'interno della curva, diamo mano a tantissime persone, la domenica le portiamo allo stadio, quindi sarebbe proprio un raccoglimento totale, una cosa in più che non è solo per la squadra degli ultras, ma è anche per la società. Una cosa che ci tengo anche a dire, che io ho notato in questi anni, avendo padre disabile, è una cosa che purtroppo a me ci butto subito l'occhio, e anche da quel punto di vista una mano per chi non può e vuole vedere una partita. Mio padre ora guarda la partita a altezza, cartellone pubblicitario, noi siamo contenti quando si lamenta e i cartelloni pubblicitari vengono buttati giù perché finalmente vediamo la riga del fondo campo. È difficile vedere i piedi di un giocatore che fa go durante l'area perché abbiamo i cartelloni pubblicitari davanti. A Correggio, e questa cosa ci tengo a dirla, entrate allo stadio, a parte uno stadio, una chicchina bellissimo col bar, con le poltroncine, una cosa meravigliosa, entrate allo stadio, c'era una passerella solo per persone con accompagnatori che andavano sotto una pensilina, quindi coperti dalla pioggia, e c'erano delle sedie apposta per loro, davanti non c'erano cartelli pubblicitari, cioè loro da lì vedevano la loro partita. Non mi è capitato da altre parti, sicuramente in Serie A ci sono passerelle, a Empoli c'è l'ascensore, per carità, quelli sono altri stadi. Io dico, nei nostri livelli negli ultimi anni è una grande differenza, e questo manca perché negli anni, come abbiamo detto prima, non c'è stato un upgrade del Liliferi. Quindi diciamo che sulle note delle canzoni di Ligabue prendiamo lo stadio di Correggio ad esempio, e auguriamoci che la corporatività fra donne abbia inizio anche a Montevarchi. Bene Giulia, siamo quasi in conclusione, ti faccio un'ultima domanda, tra l'altro ispirata dal fatto che in passato abbiamo ospitato qui in trasmissione la madre di un ultras, di uno dei personaggi di spicco della Curva Sud. Che a me ha insegnato tanto. Esatto. Io ho tante storie, le so grazie a lei, perché quando facevo parte delle trasferte, ero ancora più piccola, andavo in trasferta con il club, lei era una di quelle che si sedeva vicino a me e ne ho sentite tante di storie raccontate da lei. Roberta è una grande, è stata meravigliosa. È stata penso una delle puntate più belle da fare, almeno dal mio punto di vista, tra l'altro. Dicevamo, a casa tua però, visto che si è parlato di questo rapporto con tuo padre, di questo rapporto con il Montevarchi che si tramanda di padre in figlio, come tante altre volte ci è capitato di raccontare, tua madre però non è un ultras, com'è che vive tua madre questa passione, questa vostra passione, quindi il fatto che la domenica la casa si svuota, il fatto che quando siete insieme parlate tanto e principalmente di Montevarchi, e lei comunque probabilmente non ha quello come passione primaria della vita. Vabbè, mia madre mi dà della bischera, punto. Quindi, però se penso che negli anni, io non ero ancora nata, i miei genitori erano sposati da poco, e mia madre l'ha seguita un sacco di partite, non so un cavolo di calcio. A Lugo di Romagna mi ricordo ancora un calcio d'angolo di 6 rigori e mi vergognai tantissimo. Però si torna lì, la montevarchinità, l'attaccamento che era della città, si muovevano quartieri interi, quindi di conseguenza c'era anche mia madre in queste trasferte, anche se non mi fregava niente di calcio, era proprio uno spostamento globale dell'intera città, degli interi quartieri, quindi mia madre ne ha fatte tante, ora non gliene frega niente, ripeto, mi dà della bischera, perché sì, la domenica si svuota la casa, ma non è solo quello è una routine, quando c'è Montevarchi in casa io porto sempre mio padre, poche volte anche in trasferta, però tipo c'è l'infrasettimanale o c'è, non so, la trasferta di Coppa di sera, lei mi chiama, oh Giulia ci sei a cena stasera? No, guarda, vado a Torrita a vedere la partita, no, ci sei proprio scema, ci va anche stasera, cioè è un concetto anche difficile, come è difficile spiegarlo a persone che, come dicevo all'inizio puntata, che conosce da un momento all'altro e ti dicono, ho sentito dire sei un ultras, vai a spiegare che in cosa consiste questa passione. Lei l'ha capito, cioè alla fine non ci smuove in casa, quindi alla fine lei è abituata, però sì, ci dà dei, alla fine conclusione lei ci dà dei bischeri, perché tutte le domeniche o comunque tutte le volte che si tratta di Montevarchi, Lei lo sente, lei c'ha l'eco in casa per questo. Per fortuna mio fratello non gli frega niente di calcio, se no ci sto provando con le nipoti ma non mi riesce ancora portarcelo, però è bello anche questo. Comunque è bellissimo in conclusione ripensare a una trasferta come quella di Lugo, come diceva Giulia, in cui un po' tutta la città, anche chi non segue le sorti della squadra, si sente coinvolta e partecipa, un po' come oggi succede raramente a Montevarchi purtroppo, però che ne so, per la festa del perdono quando c'è Gio del Pozzo, che quasi tutti o comunque una gran parte di persone non sanno neanche cos'è, vanno lì a vedere perché quella sera c'è Gio del Pozzo. L'augurio secondo me da lasciare in conclusione di questa puntata è questo, e magari un giorno tornino a esserci partite che possano rappresentare un momento di incontro della cittadinanza e quindi un momento vero di amore per Montevarchi, anche a prescindere da quanto la gente segua le sorti della squadra settimanalmente o comunque stagionalmente. Sono d'accordo, questa è probabilmente uno degli auguri della montevarchinità, della ritrovata montevarchinità che potrebbe venire fuori, in effetti quello che è venuto fuori dalle parole di Giulia nella registrazione di stasera è, secondo me, una fotografia molto pulita e lucida di quello che è e di quello che potrebbe essere se le cose andassero in una certa direzione. Questo è il mio augurio. Approfitto per ringraziare il nostro regista di stasera, Axel Brown. Ringrazio anche Stefano Neri che ci concede gli spazi all'interno della Galleria San Lorenzo in pieno centro storico di Montevarchi. Ringrazio il mio compagno di volo alla ricerca della montevarchinità, Julian. Io ringrazio Giulia, sono stato veramente felice di averla avuta qui con noi, è stata una puntata bellissima, sono contentissimo, grazie di essere venuto. Grazie Giulia, anche da parte mia. Grazie a voi, mi è stato un piacere essere qui stasera con voi. Ringraziamo anche tutti gli ascoltatori di Radio Big World e vi diamo appuntamento alla prossima settimana con Ti racconto una storia, il volo dell'Aquila. Grazie. Piccola Empoli, tu ci fa soldi, ragazzi, e funziona così. E il vero calcio, i veri soldi li fai così. Atalanta, Empoli, li fai così. Veri soldi. E poi si spinge ad andare in quella direzione. Empoli era paragonato a Barcellona anni fa, credo tuttora, ora non lo so, ma. Sono una gran chiacchierona, non sono mai fermata. Ma perfetto, va benissimo. Ottimo, ottimo. E. Ah no, perché ti volevo chiedere. Sì, ti saluto io purtroppo non c'ero. Dove mando io? Appena fu, mi ha pisciato. Vabbè che il regista è porno, ma arrivare ai trash mentre pisci no, eh. No, il piccolo diavolo c'era. La pisciata. Ultra. E cascavo anche lo sciacquone. Alla prima camminata in Prato Magno, che organizzai io dall'inizio alla fine, percorso compreso, quando arrivarono alla croce, mentre erano in percorso, dissero: ma chi ha fatto tutto questo da Giulia? Se c'era 15 Giulia, se la farà. Regista smoccola. Regista all'andela. Mike Brown. No, regista porno tira fuori il fazzoletto, alla fine. Funziona mia, è Pip Show. Lei, però era anche lei un'ultra. Lei mi ha insegnato anche tanto, bravo, lo voglio. Però a casa tua c'è una mamma che non è ultra, no. Che però sente parlare di Montevarchi tutta la settimana e quando c'ho ai Montevarchi gli si svuota la casa. Axel Brama, che. Come dai, cioè, Axel Brama? Io mi sono fidato, ho detto che ha vinto l'Oscar. Va bene, poi ho guardato. Sì, ma che Oscar? Ho guardato su il cinema lì, come la notte degli Oscar, quelli americani, un c'è. Allora, io ho la filmografia a scaricare a casa. Mi spieghi che Oscar ha vinto Axel Brown? Allora, lui è uno dei registi italiani più conosciuto, il vero nome è Rossi Alessandro Del Re, perché ha vinto l'Oscar del porno. Quindi ha vinto la fava d'oro. Avete avuto tanti maschioni e nessuno vi ha citato un regista del porno, ho detto voglio io. Questa è la patata d'oro, la fava d'oro, la verga d'oro. Ma perché deve essere d'oro? Scusa, potrebbe essere di la verga nera. Che è quello di WhatsApp. Oh, oro nero. Questo è un grande déjà vu. Quando noi si venne ospite della tua trasmissione, facevi a tuo tempo, lui era di là in regia a bere la birra insieme a Diego. Io ero insieme a William a invece spiegare uno dei memorial di Montevarchi, ospitati con il torneo e tutto, poi ospitati dal centro Don Chisciotte. Tra l'altro, quando Giulia, facevo in un'altra radio. Tra l'altro, Julian era uno della squadra Materasso e Don Chisciotte che ha vinto una partita in tutti i tornei organizzati negli anni. E tra l'altro, l'ho marcato anche una volta, forse due, ma nella stessa partita penso che ho fatto una doppietta. Eri dopato, eri stato in Spagna dal dottor Fuentes. Ma io sono uno di quelli, se vuoi tirare il pallone lì, lo tira di là, probabilmente. ovviamente volevo passare, ho fatto come me lo ricordo, però di sicuro uno una volta, l'ultima, ma sarà stata nell'ultima noi abbiamo vinto e pareggiato una volta in assoluto in tutti i tornei, e è stato nell'ultimo torneo e poi non siamo passati per un soffio alla fase successiva. Per me era, io sono il presidente, per me era un miracolo. Ma in questi tornei c'erano arbitri con bidoni della spazzatura al posto del cuore? Sì. No, dovevano fare 14 gol di differenza, perché erano secondi a pari mezzo, dovevano fare 14 gol di differenza contro di noi, nemmeno fosse stata pagata, perché io non ho preso un euro, e la squadra Materasso, sempre quella, si il subì 15 gol. Mi ricordo fu di Boschi, probabilmente. Di pancia, uno lo... no, sì! Allora, sono, no, la tecnologia è la VAR, l'affarino che uno richiama, che è il VAR, cioè anni di studio. È successo che dalla fuori ciò, ma guarda.